Aristotele, come ogni altro essere umano più o meno, si trovò di fronte a una scelta. O i corpi stavano fermi per loro natura e si muovevano per qualche causa, o i corpi si muovevano per loro natura e stavano fermi per qualche causa. E ovviamente le alternative erano due. Non credo che ritenesse l'una alternativa più giusta dell'altra, ma fatto sta che dovendo scegliere scelse la prima, e i corpi per natura loro, una natura loro attribuita ben inteso da noi, stanno inquiete. Per spiegare poi perché si muovevano, ipotizzò che un misterioso motore stesse nel mezzo che i corpi muovendosi attraversano. Galilei più tardi cambiò tutto. Decise che i corpi si muovono per loro natura lungo traiettorie circolari e dunque che lo stato di quiete e i movimenti lungo altre traiettorie andassero spiegati. I ritocchi apportati a queste assunzioni teoriche costituiscono la storia della fisica classica. La vita ce la raccontiamo così. Scegliamo un paradigma, per lo più in ragione di un criterio di economia, e quando possiamo saniamo le differenze. Quando non possiamo, o ce ne freghiamo con le frustrazioni del caso, o cambiamo paradigma. Sono sul treno, sto tornando da Firenze e sull'Eurostar sto sfrecciando davanti alla stazione di Piacenza. All'altoparlante il capotreno sente la necessità di fare una comunicazione. Si comunica alla gentile clientela che questo treno sta viaggiando in perfetto orario. È una piccola rivoluzione scientifica. Ritarda oggi, ritarda domani, lontani come siamo dall'epoca in cui del fatto che i treni arrivassero in orario si menava gran vanto, a paradigma viene assunto il ritardo cronicizzato. E dunque la differenza all'essere in orario va sanata dicendolo, sì, in modo che ciascun viaggiatore sappia regolarsi di fronte all'imprevisto.